Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata e benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Ci ritroviamo qua dopo il lungo ponte pasquale con, almeno fino a questo momento, discrete notizie che arrivano dalla borsa. Eravamo molto preoccupati per la riapertura dei mercati dopo le notizie del fine settimana che hanno riguardato soprattutto il nostro paese, la decisione del Presidente della Repubblica Napolitano di assegnare a questi due comitati di saggi questa sorta di perlustrazione politica per capire se ci sono le condizioni o meno di formare un nuovo governo e soprattutto per dare anche un'indicazione sulle priorità da mettere adesso in lista. Decisioni politiche da prendere naturalmente per mandare avanti anche l'azione di governo. Tutto questo, insomma, c'era il timore che potesse determinare un'apertura molto pesante oggi per le contrattazioni a Piazza Affari. Non solo, naturalmente si guarda a Roma, si guarda anche a tutto ciò che sta accadendo a livello internazionale, le notizie da Cipro e quant'altro. Invece oggi il mercato sorprende, perché l'apertura della settimana, che avviene di martedì perché anche ieri abbiamo avuto la pausa, è molto positiva, ed è positiva particolarmente adesso su alcune piazze, su Parigi, su Francoforte e Londra, che segnano un rialzo di circa un punto percentuale, anzi più 1,24% Francoforte, mentre Milano è a più 0,40%. Milano ha aperto con un calo di mezzo punto percentuale. Fra poco vi daremo i dettagli della seduta di borsa, non è però questo il tema che tratteremo oggi a Salva Danaio. Parliamo di altro. Oggi è martedì, solitamente avevamo il martedì del lavoro, vi abbiamo abituato anche a questo approfondimento in questa giornata della settimana. Oggi non l'abbiamo fatto, li riprendiamo martedì prossimo e magari ci occuperemo anche dei dati che sono stati diffusi questa mattina sulla disoccupazione nel nostro paese, che mostrano un'attenzione particolarmente forte non solo sulla disoccupazione giovanile, perché la conoscevamo già, ma anche sul mercato appunto femminile. Non c'è un'attenzione particolare, c'è un dato positivo, perché la disoccupazione a febbraio è scesa all'11,6% dall'11,7% di gennaio, con una crescita dell'occupazione in questo mese dovuta soprattutto alle donne. E magari chissà che mercoledì, che martedì prossimo appunto, non decidiamo di fare proprio un approfondimento su questo aspetto. Di cosa parliamo invece oggi a Salva Danaio? Di una notizia che abbiamo già approfondito in tante altre puntate, che ha sempre scatenato molto dibattito tra di voi, e non rimarremo, immagino, delusi neanche quest'oggi. Siamo sicuri che considerazioni oggi non mancherete di farle pervenire ai nostri canali. Da ottobre prossimo le banche, come saprete, dovranno aprire le porte al fisco per permettere all'amministrazione fiscale, per consentire all'amministrazione fiscale di vigilare, tra virgolette, sui conti correnti degli italiani e più in generale su tutte le loro attività finanziarie. Le informazioni acquisite potranno essere utilizzate per effettuare accertamenti qualora i movimenti risultassero anomali. L'Agenzia delle Entrate arriverà così a creare delle liste selettive di soggetti a maggior rischio di evasione su cui indagare ulteriormente, per cui parte ufficialmente appunto questo trasferimento di dati finanziari all'anagrafe tributaria, che è già preesistente. Salva Danaio oggi fa il punto della situazione, spiegando il funzionamento di questo traffico di notizie, di questo sistema informativo, rispondendo anche alle perplessità e alle preoccupazioni degli ascoltatori, che su queste modalità di accertamento sono sempre estremamente preoccupati, scettici, indispettiti, un po' anzi incarogniti, direi. Allora, in vista di questo appuntamento, tra l'altro, oltre a sentire le vostre considerazioni, quello che ci chiederemo questa mattina è se c'è, per prepararci, qualche operazione specifica da fare, se il contribuente, oltre ad informarsi, deve mettere in alto qualche condotta specifica, oltre a tenere una corretta contabilità familiare e personale. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, chiamarci, esprimerci le vostre considerazioni, farci anche le vostre domande. Noi questa mattina con chi ci confronteremo? Con due amici che ci aiutano sempre ad orientarci in questo terreno, che è generalmente molto complicato, dal redditometro allo spesometro, l'accertamento sintetico e tanti altri argomenti. Ringrazio e saluto e auguro a loro un buon inizio del mese di aprile. Nicola Forte, consulente tributario ed esperto per il Sole 24 Ore su queste tematiche. Forte, buongiorno, benvenuto, bentornato anzi. Grazie, grazie Deborah. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bentornato anche l'avvocato Fabrizio Vedan, vice direttore generale di Unione Fiduciaria, che è la società fiduciaria e di servizi delle banche popolari. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Deborah. Allora, oltre a prenotare i vostri interventi attraverso il nostro numero verde, potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Scriveteci su Facebook, sul nostro profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Per quello che riguarda la borsa vi ho già raccontato molte cose, però magari introduciamo lo stesso la nostra rubrica quotidiana andando a monitorare i migliori e peggiori di Piazza Affari. È una giornata nera per le banche, ancora una volta, ma a parte lo spread che non incide più di tanto perché è partito alto, ma è sui livelli di settimana scorsa, è partito proiettato verso i 350 punti base per poi scendere adesso intorno ai 340. Oggi pesa il caso Monte dei Paschi, il titolo adesso perde il 6%, è arrivato a perdere 10 punti percentuali, ha avuto anche diverse sospensioni. Cosa è successo? Che il gruppo la settimana scorsa, già al centro di un caos, come sapete, gestionale molto pesante, che ha portato alle dimissioni dei vertici nei mesi scorsi, il caso Nomura, le operazioni Alexandria, eccetera, eccetera, non stiamo a ricordarle. Il tema è che il gruppo ha fatto conoscere i suoi risultati di bilancio settimana scorsa e è stato comunicato al mercato un dato abbastanza pesante, una perdita da 3 miliardi e 170 milioni di euro. Dopo la comunicazione di questa perdita, sono naturalmente arrivate le considerazioni, i commenti, le revisioni dei giudizi da parte di molte case di investimento e ce n'è stata una stamattina che è stata definita shock, quella di Exane, broker di BNP Paribas, che ha detto che il target price, il prezzo di riferimento di questa società dovrebbe essere abbassato a 10 centesimi di euro. Secondo Exxon, MPS non sarà in grado di liberarsi del supporto dello Stato verso cui è debitore per quasi 4 miliardi di euro, come sapete il gruppo ha ottenuto i Monti Bond, non sarà in grado di liberarsi di questo supporto prima del 2019 e di conseguenza fino a quella data non potrà pagare dividendi e vivrà appunto con questo fardello. E questa è la reazione oggi di borsa, titolo in netto calo. È comunque migliorata la situazione, anche altre banche perdevano intorno al 3%, adesso le vedo tutte in miglioramento, meno 2 punti percentuali per UbiBanca, meno 2,19 per la Popolare di Milano, meno 1,91% per Mediobanca. Chi va bene invece? STM più 3, Salvatore Ferragamo, ancora regina delle contrattazioni, più 2,83%, è stato in assoluto nel primo trimestre dell'anno, il miglior titolo chiaramente di Piazza Affari. Mediolanum più 2, Telecom Italia più 2%. Intanto Milano continua a recuperare punti e segna più 0,56%. Direi che per la borsa possiamo lasciar stare, abbiamo già detto tanto, andiamo subito al tema di oggi e parliamo appunto di questa anagrafe dei conti correnti. C'è già chi parla di Grande Fratello Bancario ed è ormai ufficiale. L'anagrafe dei rapporti finanziari, questo il nome corretto, partirà il prossimo 31 ottobre. Il nuovo strumento, tanto discusso negli ultimi mesi, è stato messo in campo con l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'evasione fiscale. Finiranno sotto osservazione tutti i conti correnti, ma anche i depositi, titoli e obbligazioni, la gestione patrimoniale, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi, i contratti derivati, le carte di credito e debito, i prodotti assicurativi, l'acquisto e la vendita di oro, e il numero di accessi annui alle cassette di sicurezza. Il fisco potrà disporre delle informazioni finanziarie relative alle operazioni di tutti i contribuenti italiani e potrà individuare i soggetti più sospetti, inserendoli in apposite liste, da tenere sotto controllo con particolare attenzione. In una prima fase, le entrate potranno disporre solo delle informazioni relative all'anno 2011. Per trasmettere quelle del 2012, gli intermediari avranno tempo fino al 31 marzo 2014. Una volta entrate a regime, le segnalazioni dovrebbero partire entro il 20 aprile di ogni anno. L'attivazione di questo nuovo sistema sta creando non poche preoccupazioni e polemiche tra i contribuenti. Sono in molti a temere che il fisco possa farsi delle idee sbagliate a partire da queste informazioni, fiutando un evasore anche dove non c'è e mettendo in difficoltà cittadini già alle prese con gli effetti non facili della crisi. Dalle entrate però chiariscono, con le informazioni acquisite con questa potente lente di ingrandimento, si potranno soltanto individuare delle anomalie finanziarie, mentre l'eventuale accertamento si svilupperebbe secondo i canoni di una qualsiasi verifica fiscale. È il nostro Marco Lombardo che, come diceva giustamente il nostro Fabio Cantadori in regia, oggi ha fatto il burlone, ha messo addirittura la musica del Grande Fratello, la sigla di questa trasmissione conosciutissima, per magari alleggerire un po' tutta la preoccupazione che c'è intorno a questo, chiamiamolo così, Nicola Forte, strumento di accertamento, è corretto? La misura è una misura propedeutica all'accertamento, ma non è detto che a fronte, come giustamente diceva la scheda, che questi dati che saranno noti al fisco automaticamente verranno effettivamente impiegati. Abbiamo tutta una serie di passaggi, di step. Abbiamo prima la trasmissione dei dati da parte dell'intermediario, avremo probabilmente la predisposizione da parte dell'agenzia una serie di indici in modo da trarre delle utili informazioni dai dati stessi, probabilmente delle liste selettive, ma non è detto il contribuente che sarà incluso nella lista selettiva sarà oggetto di accertamento, probabilmente sarà oggetto prima di ulteriori riscontri. Allora, andiamo di nuovo, anche se nella scheda lo abbiamo indicato, a rifare un po' la lista della spesa su tutti quei rapporti che intercorrono fra noi come contribuenti e risparmiatori ad un intermediario finanziario, che finiranno appunto all'anagrafe tributaria, che per la verità, magari Forte, spieghiamolo anche, è comunque, come dire, non saprei neanche come definirla, uno strumento, un apparato che già l'amministrazione fiscale appunto aveva da molto tempo, che già utilizzava. Certo, ma tutta una serie di dati erano già noti al fisco. Quando acquisto un'autovettura, contraggo un mutuo, acquisto un immobile, il fisco è già a conoscenza di questi dati. Prima di quest'ultimo intervento, che poi trova la sua origine nel cosiddetto decreto Monti, nella manovra Salva Italia, il fisco addirittura già conosceva anche il numero dei conti correnti, i rapporti che quel contribuente aveva, e conosceva anche presso quale intermediario il contribuente stesso aveva intrattenuto un rapporto. Non conosceva ancora il saldo iniziale, il saldo finale, il totale a debiti e il totale a crediti. Quindi abbiamo fatto un passo in più, ma molti dati sono sicuramente già noti. Fabrizio Vedana, vengo a lei naturalmente adesso, tanto per far capire bene ai nostri ascoltatori come funzionerà questo trasferimento di dati. Peraltro è stato tutto procrastinato, perché, se non ricordo male, diciamo, nelle intenzioni iniziali del governo c'era quella di avviare questo meccanismo di trasferimento appunto di notizie già da questo mese, invece poi un po' di trattative hanno portato tutto a far slittare ad ottobre, no? Mi ricordo male? No, ricorda bene Deborah, il periodo a partire dal quale vige l'obbligo è il 31 ottobre 2013 e andrà alimentato con i dati relativi al 2011, mentre l'anno 2012 andrà comunicato entro il 31 marzo del 2014 e gli anni successivi, quindi il 2013 e seguenti, andranno comunicati entro il 20 di aprile dell'anno successivo. Quindi i dati del 2013, quindi la movimentazione, i saldi dei conti correnti del 2013, andrà comunicata il 20 aprile 2014, quelli del 2014 il 20 aprile del 2015 e via dicendo. Quindi, tanto proprio per fare un esempio molto pratico, allora, a partire da ottobre il fisco avrà a disposizione i dati che la mia banca trasferirà appunto all'amministrazione fiscale relativi, se io prendo in considerazione adesso solo il conto corrente, farà un punto della situazione, una fotografia tra quello che c'era il 1 gennaio del 2011, il 31 dicembre 2011, tutti i movimenti che sono stati fatti in questo anno, e questa fotografia verrà trasferita all'anagrafe dei conti. Esatto, è proprio così. Ecco. Per quello che riguarda invece gli altri strumenti, che sono magari un po' più complicati, magari ci sono molti strumenti di investimento anche appunto nei depositi titoli delle persone appunto che ci stanno ascoltando, forse per quelle la fotografia esatta è un po' più complessa, oppure no, prendendo magari in esame solo due date precise dell'anno, in realtà è semplice anche per quello? Vedana. Per quelli va comunicato il controvalore dei titoli a inizio anno e a fine anno, quindi il classico estratto conto che il cliente riceve a propria abitazione, con una periodicità che può essere trimestrale, mensile piuttosto che annuale. Quella rendicontazione l'amministrazione finanziaria la vuole vedere con la fotografia a inizio anno, quindi al primo gennaio del 2011 relativamente quindi a quelli che verranno mandati ad ottobre e al 31 dicembre del 2011. Ovviamente se il rapporto titoli è stato aperto nel corso dell'anno invece andrà comunicato il dato, il saldo che c'era all'inizio quando è stato aperto il rapporto, ipotizziamo a febbraio del 2011, e il saldo che aveva la data di chiusura, ipotizziamo ad ottobre 2011. Allora, Nicola Forte, torno da lei. Noi in questo momento, almeno fino a questo momento, abbiamo spiegato tutti quelli che sono gli adempimenti a carico degli intermediari, perché questo trasferimento di dati devono farlo appunto le banche, le società di gestione del risparmio, le compagnie di assicurazione per quello che riguarda i prodotti assicurativi, poi magari entreremo ancora più nel merito di questo. Noi invece come contribuenti e diretti interessati, comunque anche se noi questa operazione in questo momento non la vediamo perché non è a noi visibile, la mettiamo adesso e lo abbiamo fatto anche in altre trasmissioni a conoscenza delle persone che ci ascoltano, ma comunque come è bene che ci troviamo preparati qualora risultasse, e vedremo anche quali potrebbero essere le conseguenze, una discrepanza rispetto a quello che si attende l'amministrazione fiscale appunto da questo trasferimento dati, come dobbiamo secondo lei, e se dobbiamo farlo perché magari lei mi risponde di no, dobbiamo riorganizzare la nostra contabilità familiare e personale? Ma diciamo, se posso dare un suggerimento nei limiti del possibile, di cercare nella mia economia familiare di tracciare tutti i movimenti, nel senso che fare poco utilizzo, poco impiego del contante, trasferire anche amici, parenti per le esigenze più disparate delle somme di denaro, ecco, il suggerimento pratico è proprio di farlo in forma tracciata, perché se a un certo punto l'Agenzia delle Entrate mi dovesse dire guarda il totale dei tuoi accrediti nell'anno non trova rispondenza nella dichiarazione di redditi, che ha un reddito molto basso, tramite movimenti tracciati io sarò in grado evidentemente di dire che quelle somme che mi sono affluite periodicamente sul mio conto corrente, qual è la loro origine. È chiaro che il movimento, il trasferimento più è di importo elevato e più probabilmente sarà effettuato il trasferimento attraverso uno strumento tracciato, anche perché noi non dobbiamo dimenticare, abbiamo le disposizioni in materia di antiriciclaggio, che a prescindere da questi comportamenti concreti che i contribuenti, le persone interessate possono assumere, impone appunto l'utilizzo di uno strumento tracciato quando il trasferimento è pari o superiore a 1000 euro. Sicuramente quindi questi consigli, questi comportamenti possono aiutarci, soprattutto a distanza di tempo, a ricostruire un po' tutta la situazione. Ecco, c'è una serie di ascoltatori che ci stanno scrivendo perché chiedono se la banca, in questo momento comunque l'intermediario finanziario, deve avvisare il correntista o titolare, appunto il sottoscrittore di un prodotto di investimento, di questo flusso di informazioni che il appunto intermediario stesso deve effettuare nei confronti dell'amministrazione fiscale. Ci comunicheranno qualcosa le banche, Vedana, oppure c'è già arrivata una comunicazione e ce la siamo persa? No, siamo ancora in tempo, forse, perché se comincia ad avvenire il 31 ottobre il trasferimento, forse nei prossimi mesi ci diranno qualcosa o no? C'è un obbligo informativo? In realtà non c'è un obbligo informativo trattandosi di un obbligo di legge, normalmente però le banche danno informativa nell'ambito del documento informativo che viene consegnato ai clienti in senso normativa sulla privacy dell'esistenza di questi obblighi. L'obbligo che ha la banca, ce l'aveva già da ieri, cioè da ieri da quando è entrata in vigore la vecchia anagrafe, quindi dal 2006-2007, laddove l'amministrazione finanziaria direttamente o tramite i comandi della Guardia di Finanza facessero richiesta di ulteriori informazioni su un conto di un cliente, su un deposito, su una gestione, hanno l'obbligo, laddove la risposta data all'agenzia fosse stata positiva, di darne immediata comunicazione scritta al cliente, in modo tale da consentire al contribuente di sapere, nell'ambito di un eventuale contenzioso fiscale, che tipo di informazioni ulteriori sono state inviate dalla banca, dall'intermediario all'amministrazione finanziaria. 800 24 00 24, io torno a ricordare il numero verde che potete utilizzare per prenotare i vostri interventi. Ne vedo prenotato qualcuno, poi gli ascoltatori non rispondono al telefono quando li richiamiamo, appunto per dar loro la possibilità di intervenire in diretta, e poi arrivano anche tanti messaggi, naturalmente come era nelle attese, molte contestazioni su questa procedura che sapevamo già sarebbe entrata appunto a regime, e molti ascoltatori che dicono lo Stato vuole combattere l'evasione, abbassi le tasse e vedrà che le pagheranno tutti quanti, e anche questo è sacrosanto, ancora insomma raggiungere questo obiettivo non ce la facciamo di fatto, però insomma l'evasione fiscale è ancora estremamente alta, e c'è anche molta altra gente che dice io di tutto questo meccanismo di controlli, chiamiamoli così, non sono per nulla intimorito perché le tasse ne pago tante, ci dice un ascoltatore, e ritengo che non si comportino correttamente ovviamente quelli che non le pagano, io non le voglio più pagare anche per loro. Il scorso 25 marzo Nicola Forte, torno da lei, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, ha firmato un provvedimento che fissa le modalità e i termini per l'invio da parte delle banche dei dati sui saldi, dei rapporti e delle movimentazioni. Che tipo di informazioni aggiuntive ha fatto circolare Befera appunto con questo provvedimento? Che cosa mancava ancora all'appello? Ma diciamo sostanzialmente il garante della privacy aveva fatto tutta una serie di contestazioni circa le modalità di trasmissione di questi dati. Per queste ragioni il provvedimento è arrivato un po' lungo rispetto al decreto originario della manovra Monti, quindi la preoccupazione del garante è che questi dati, essendo dati, ovviamente c'è un'esigenza di privacy e di riservatezza, tant'è che non saranno poi a disposizione di tutti i funzionari del fisco, che transitassero dall'intermediario al fisco attraverso canali non intercettabili. Quindi questo in qualche modo ha ritardato il decreto. Mm-hmm. Poi altre ragioni del ritardo è che in alcuni casi non si aveva ancora chiarezza sulle informazioni che l'intermediario doveva trasmettere al fisco, ad esempio sulle carte di credito si è discusso a lungo se l'informazione che interessante per il fisco dovesse essere rappresentata dalla disponibilità, dal plafond della carta, ovvero dall'utilizzo effettivo. Chiaramente la logica è a prevalso, cioè l'utilizzo effettivo, perché quella è la capacità di spesa. Ovvio. E quindi per chiudere il cerchio ovviamente è passato un po' di tempo. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, il tema di oggi: da ottobre le banche dovranno aprire le porte al fisco per permettergli di vigilare sui conti correnti degli italiani e più in generale su tutte le loro attività finanziarie, e finiranno sotto osservazione conti correnti, i depositi, i titoli e obbligazionari, le gestioni patrimoniali, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi, i contratti derivati, le carte di credito e debito, i prodotti assicurativi. Ah, questa è bella, poi Vedana me la deve spiegare, l'acquisto e la vendita di oro, il numero anche degli accessi annui alle cassette di sicurezza. Tutti questi dati appunto verranno trasferiti all'anagrafe tributaria per permettere naturalmente modalità di accertamento su possibili casi clamorosi ed eclatanti di evasione fiscale, uno strumento in più di cui il fisco vuole dotarsi, e naturalmente uno strumento che a molti ascoltatori non piace affatto, e questo l'abbiamo detto già tante volte, mentre ci sono anche coloro che invece non vedono con grande preoccupazione tutte queste novità. Maurizio ci scrive: per me il discorso rispetto a quello che facevamo all'inizio della trasmissione è capovolto. Quando tutti pagheranno le tasse, inevitabilmente vi sarà una riduzione di queste, della spesa e di tutti gli sprechi. Enrico: se non ho evaso imposte non ho nulla da temere, chi contesta il principio ha la coscienza sporca, è proprio chi contesta nascondendosi dietro la privacy che giustifica l'azione del fisco. Enrico, lei ha interpretato bene anche il mio pensiero, siamo un po' impopolari, forse ci sfugge qualcosa, non lo so, ma in ogni caso 800 24 00 24 per capire se dobbiamo preoccuparci o meno, e per capire anche come dobbiamo cambiare le nostre abitudini, se abituarci a tenere una trasparentissima, corretta e precisa contabilità familiare e personale. Allora, Marco da Roma. Marco proprio non lo digerisce questo trasferimento di dati. Buongiorno Marco. Buongiorno, no, io penso che al di là delle tecnicalità, perché voi ne parlate seriamente, come del come, del per come, per me si chiama fascismo fiscale, ormai siamo alla follia totale, non siamo più cittadini, siamo solo dei potenziali evasori. Come se in Sicilia, siccome c'è la mafia, chiunque deve essere sottoposto ai raggi X per capire se è mafioso o meno, e la vita personale delle persone viene stravolta alla merce del signor Attilio Petra. Io penso che sia ora, cioè da chiedersi solo una cosa, quando è che saremo in grado di dire basta, e riprenderci la nostra vita. Guardi cosa sta succedendo a Roma in questi giorni, Marco, c'erano tante belle intenzioni, no? E mi pare che invece non si riesca a fare nulla, per cui vabbè, comunque magari questo ragionamento, questo legame con Roma e l'evoluzione delle trattative politiche non c'entra nulla col tema di oggi, però insomma Marco la vede in maniera molto chiara, siamo a fascismo fiscale, dice lui, e qua il tema è che siamo, secondo il fisco, tutti potenziali evasori, forse perché ce ne sono tanti, Marco, che il fisco si sente anche nel diritto di dire così, non è che lo sto giustificando, così interpreto. Oppure al contrario, se invece appunto non ci fosse questo elevato stock di evasione fiscale che continua ad essere conteggiato e anche rimaneggiato verso l'alto, magari appunto la vedremmo in maniera diversa, lo farebbe anche l'amministrazione fiscale, che ne so, siccome quella condizione là positiva non l'abbiamo mai vissuta, non siamo neanche in grado di poter dare un giudizio al contrario. Sentirei anche Nicola da Treviso, poi darò la parola ai miei ospiti di questa mattina, Fabrizio Vedane e Nicola Forte, che sono due esperti su questo temi appunto per il Sole 24 Ore. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Ci dica, Nicola, un tema invece, una domanda pratica, molto concreta. Sì. Io ho tutto quanto regolare perché ho un'azienda agricola e quindi verso le mie tasse è tutto regolare, però ho ricavato, ho dei soldi che ho pagato ugualmente le tasse. Io non ho voglio, non lo voglio proprio il bancomat o quant'altro. Io quando pago sopra 1.000 euro faccio il mio assegno regolare, ma tutte le piccole spese giornaliere voglio capire come faccio a spendere i miei soldi, come faccio ad andare in banca a prelevarli per spendere, che io praticamente divento un evasore con le cose fatte per te. Ma non credo che bisogna vederle in maniera così. Beh, intanto lei ha già spiegato appunto che utilizza uno strumento che è regolarmente tracciabile e per cui non deve assolutamente sentirsi obbligato a fare un bancomat. Detto questo, sentiamo se ho fatto un ragionamento sbagliato. Riprendo da Nicola Forte. Sulla osservazione fatta da Nicola da Treviso, lui comunque non vuole strumenti elettronici di pagamento, no, per le sue piccole spese, ecco, può continuare ad utilizzare l'assegno? Certamente, l'assegno è uno strumento di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità, tra le altre cose è uno strumento che è appunto mezzo di pagamento non trasferibile, perché è sempre per... con riferimento alle disposizioni antiriciclaggio, gli assegni che raggiungono, superano questa soglia devono essere non trasferibili e quindi il comportamento è sicuramente corretto. Per le piccole spese, per le spese correnti, potrà di volta in volta prelevare la disponibilità necessaria dal conto corrente o utilizzare la disponibilità ottenuta in contanti entro i 1.000 euro e fare normalmente i pagamenti. Per quanti possono essere questi pagamenti in contanti, mantenendo, osservando, rispettando la soglia di 1.000 euro, non arriviamo mai a grossi volumi, quindi direi che il nostro ascoltatore può stare tranquillamente, può essere tranquillo. Può continuare con le sue abitudini. Sì. Tra l'altro stavo riflettendo adesso che l'osservazione fatta invece da Marco da Roma mi fa pensare un po' a quello che c'è sicuramente accaduto almeno una volta nella vita a tutti a scuola, no? Quando c'è il compagno di classe particolarmente turbolento che ne combina una più di Bertoldo e magari chiaramente tutti i suoi colleghi di classe lo sanno ma non fanno giustamente la spia, perché poi a quell'età ci mancherebbe altro, cosa fa la maestra in genere? Colpisce tutti che per non riuscire a scoprire appunto il colpevole della malefatta, che cosa fa? Si colpisce tutta la classe. È un po' quello che mi veniva in mente, Fabrizio Vedana, rispetto all'osservazione fatta da Marco da Roma, che dice per il fisco siamo tutti potenziali evasori, per cui tutti vanno controllati, tutti vanno appunto sottoposti a questa potenziale attività di accertamento, a questo monitoraggio delle abitudini anche finanziarie, passatemi il termine, per poter arrivare poi a sgominare il fenomeno più grosso dell'evasione. Mi concede questa licenza anche poetica e scolastica che mi son presa? Beh, per rispondere un po' anche all'ascoltatore, innanzitutto ricordiamoci che anche l'Unione Europea sta chiedendo agli altri stati sempre più scambio di informazioni fiscali. Dal 2015 tutti gli stati dell'Unione Europea dovranno consentire tra di loro scambi per accertare redditi di lavoro, compensi per dirigenti, prodotti assicurativi sulla vita e proprietà immobiliari in genere. Quindi l'Italia potrà chiedere allo Stato tedesco e viceversa allo Stato tedesco all'Italia informazioni relativamente a questi aspetti, quindi non c'è più segreto bancario a livello europeo. Per quanto riguarda il discorso dell'anagrafe, poi anche per rispondere alle provocazioni dell'ascoltatore emerse anche in trasmissione, sicuramente bisogna stare attenti alle cassette di sicurezza che sono state incluse nell'elenco dei rapporti da comunicare ed in particolare al fatto che dovranno essere comunicati il numero totale degli accessi effettuati nell'anno. E anche il contenuto? E al contenuto no, il contenuto no, ma il numero totale degli accessi, il contenuto quello la banca. Ah, quindi dentro la cassetta di sicurezza ci può essere un diamante, come ci possono essere 5 milioni di euro, quello che vuole sapere il fisco è quante volte la apre e la chiude, non vuole sapere il contenuto? Non vuole sapere il contenuto, però il fatto di sapere quante volte la apre è indicativo. Se io ci metto dei soldi, del denaro contante, perché temo eventuali patrimoniali o non voglio i famosi strumenti elettronici di pagamento, come diceva l'ascoltatore, e tengo il contante nella cassetta di sicurezza in banca, se tutti i giorni o quasi vado in banca e apro la cassetta di sicurezza, la banca deve monitorare queste aperture, queste chiusure e comunicare in occasione con le scadenze che abbiamo ricordato prima il totale degli accessi effettuati nell'anno. È evidente che per l'Agenzia delle Entrate poi potrebbe rappresentare un elemento di anomalia il fatto di aprire una cassetta di sicurezza in maniera ricorrente, troppo frequente. Potrebbe comunque lei condizionale giustamente lo utilizza sempre, come è giusto che lo utilizziamo questa mattina. Maurizio da Palermo con un'altra domanda, tanti tweet anche su Twitter con tante osservazioni, adesso leggeremo anche quello che ci scrivono Massimo, Massimiliano ed altri ascoltatori. Maurizio, tutti con la M, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite, vero? Sì, la sentiamo bene, Maurizio, grazie. Allora, io mi chiedevo, siccome ho una partita IVA come ditta individuale e fino ad oggi nel mio conto corrente personale faccio convogliare sia i soldi della gestione di partita IVA sia quelli personali. Cioè, bisogna distinguervi adesso oppure quale problema potrebbe nascere? Allora, adesso, a parte il trasferimento delle informazioni all'anagrafe tributaria, il tema è che per la verità, a prescindere dalla notizia di cui parliamo questa mattina, credo che una contabilità personale e una contabilità d'impresa da sempre siano state distinte. Nicola Forte, adesso non vorrei questa mattina per la verità aprire un altro dibattito su un altro argomento, ma credo che l'attività imprenditoriale debba essere ben distinta dal bilancio familiare di Maurizio. Allora, imprese individuali e professionisti in realtà non hanno l'obbligo di istituire oggi, parliamo di oggi, conti correnti separati. Quindi sotto questo profilo nessuna violazione è stata commessa. È chiaro che dal punto di vista pratico, per un discorso di ordine, per riuscire a risalire esattamente da dove provengono determinate entrate, gli impieghi che sono stati effettuati, quindi anche nell'interesse dell'ascoltatore per poter eventualmente meglio difendersi da richieste di chiarimenti da parte del fisco, è più che opportuna una separazione nel conto corrente. È opportuna ma non è obbligatoria, quindi Maurizio, per gestirsi un po' meglio le sue cose, ma... Certamente, assolutamente. E quindi insomma Maurizio, questo è quanto non deve, come dire, obbligatoriamente rispettare nessuna nuova normativa, nessuna novità legislativa, ma in ogni caso ecco ne va della sua organizzazione. Il sistema informatico come considera i giroconti al pari di non riesco a capire la seconda parte su Twitter della domanda, comunque Vedana. Il sistema informatico, credo quindi l'anagrafe dei conti, come considera i giroconti? Sono comunque operazioni che vanno ovviamente nell'ottica di un estratto conto, se queste operazioni sono state fatte, appunto anche queste vengono trasferite all'anagrafe tributaria. Beh sì, diciamo che ci sarà l'indicazione degli accrediti di un debito su un conto e del relativo accredito su un altro conto, quindi diciamo che questa informazione... fa parte delle informazioni che vengono comunicate e precedentemente invece non lo erano. Ah no, ecco, l'ascoltatore completa, Marco mi completa la domanda, al pari di entrate esterne? No, se è un giroconto non può essere considerata un'entrata di che tipo? Beh, però è comunque un accredito, quindi ci sarà un addebito su un conto corrente e un accredito su un altro conto corrente, quindi è evidente che il classico giroconto che può esserci tra il conto tra me e mia mamma della famiglia e il conto dell'impresa, è evidente che le entrate e le uscite, quindi accrediti e addebiti rispettivamente su uno e sull'altro, comunque di questi movimenti si tiene traccia e devono essere oggetto di comunicazione con la nuova anagrafe, cosa che prima non erano. Con la vecchia anagrafe doveva essere comunicata l'esistenza di un conto corrente, di un deposito titoli, di una gestione patrimoniale, ma non il saldo né la movimentazione. Per poter avere fino ad oggi quelle informazioni, l'amministrazione finanziaria doveva farne una richiesta scritta tramite una casella di posta certificata e della relativa risposta, come si diceva prima, la banca, l'intermediario, doveva dare conto al proprio cliente. Con la nuova anagrafe tutto è automatico, la banca non deve più comunicare, come invece avviene oggi, l'eventuale invio di questi dati, perché sono dati che devono essere comunicati periodicamente in automatico dalle banche. Non è più richiesta una richiesta ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria. Un ascoltatore ci scrive, vorrei capirne qualcosa di più, il mio meccanico ha aggiunto il rischio fisco, non so se magari ha messo qualche ritocco sopra al costo delle prestazioni appunto che effettua, ma magari spero che questo ascoltatore ci spieghi qualcosa in più, tanti messaggi che ci stanno arrivando. Ah ecco, mi è nata una bimba e tra i regali di vari parenti mi ritrovo con 3.000 euro in contanti, che faccio? Li butto? Ma santo cielo, ma per quale motivo li devo buttare? Ma esistono tante modalità per mettere da parte questi soldi, ma io non capisco perché quando parliamo di novità che possono essere anche di disturbo per voi, resettiate tutto quanto e pensiate che non si possa far più niente rispetto a quello che si faceva in passato. Non è così, veramente essere più chiari di così noi non sappiamo che cos'altro fare, così come un altro ascoltatore che ovviamente provocatoriamente, spero che sia così, dice: mia nonna, che fino a questo momento mi aveva abituata appunto con una paghetta come regalo, adesso dovrà farmi questo regalo solamente con un bonifico invece che darmi appunto la mancetta. Ma che bel paese, Emiliano Doro. Ma guardi, sono assolutamente convinta che sua nonna potrà continuare a darle questa mancetta esattamente con le modalità che già conosceva, perché non penso che le regali, non lo so, 15.000, 20.000 euro a botta, ce lo faccia capire e poi vediamo appunto se questa operazione è più o meno regolare. Sì, dai, continuiamo ancora a disturbare i nostri ascoltatori, appunto dando loro l'impressione che quella della quale stiamo parlando è un'operazione grande fratello sui nostri conti correnti. C'è chi l'ha definita in questa maniera, questa anagrafe dei rapporti finanziari, che parte il 31 ottobre, anzi verrà arricchita con nuove informazioni perché l'anagrafe esisteva già. E allora quali saranno i dati che partiranno dal 31 ottobre verso appunto con destinazione amministrativa? Amministrazione fiscale, conti correnti, certificati di deposito, molti prodotti di investimento, prodotti assicurativi, semplicemente le società con le quali abbiamo aperto questi rapporti, quindi la banca per il conto corrente, l'assicurazione per la polizza assicurativa eccetera, trasferisce queste informazioni all'amministrazione fiscale. 800 24 00 24 per trasmetterci tutto il vostro disappunto su queste novità, e molti altri ascoltatori che invece insomma dicono che non hanno nessun timore perché hanno anche dei profili insomma di utilizzo del proprio denaro molto molto tranquillo e molto trasparente. E allora, tra l'altro, Fabrizio Vedana, no, anzi vada Nicola Forte ancora per le osservazioni dei due ascoltatori fatte prima. L'ascoltatore che ci scriveva: mi è nata questa bimba tra vari regali, io adesso mi ritrovo con 3.000 euro in contanti, che faccio? Ne può fare quello che vuole. Ma certamente, anche perché immagino che 3.000 euro non provengano direttamente esclusivamente dalla stessa persona, probabilmente sarà una raccolta, più persone avranno contribuito per festeggiare questo lieto evento, quindi le potrà tranquillamente versare sul suo conto corrente o le potrà utilizzare per le piccole spese. Ritengo che poi la somma sia veramente modesta. Anche la formazione di queste liste selettive, questa preoccupazione, questo spauracchio, l'utilizzo di questi dati, ecco, le liste selettive saranno formate e le persone potranno essere incluse, i contribuenti, solo se effettivamente ci saranno dei profili di rischio rilevanti. Con queste somme riterrei che profili di rischio non ci sono. Per invece l'ascoltatore che è preoccupato che la nonnina non possa più dare a lui la mancetta, perché... No, vale lo stesso discorso, immagino che la mancetta sia sempre inferiore ai 1.000 euro, quindi non ci sono profili e preoccupazioni né ai fini dell'antiriciclaggio né ad altri. Esatto, fini. Quindi anche cerchiamo qui... di parlare di questioni serie, di operazioni importanti per le quali magari molti contribuenti giustamente sono preoccupati, perché hanno un'attività d'impresa, devono magari fare delle movimentazioni di denaro un po' più complesse, e quindi sono queste magari le situazioni che vanno commentate con attenzione. Per esempio, sentiamo cosa è successo a Giorgio da Modena, poi la lascio concludere forte. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, io volevo portare una mia testimonianza a proposito del mito del fa male non fare, paura non avere, insomma, praticamente. Cioè, ultimamente per i familiari ho dovuto vendere un appartamento ereditato dopo la morte dei miei genitori e ho dovuto, proprio come dicevo, per questioni familiari, fratello, eccetera, ha dovuto venderlo, ma anche la situazione, quella attuale, molto negativa per l'immobiliare, ho dovuto venderlo un po' sotto costo, abbastanza sotto costo, però comunque è una cifra per noi soddisfacente. Insomma, diciamo, rispetto al magari al prezzo di mercato, lei dice l'ho dovuto svendere, avrei potuto magari con un po' di pazienza farci qualcosa in più, l'urgenza invece mi ha imposto di chiedere un po' meno all'acquirente. Sì, avevo un fratello in difficoltà, lui certo. Ha detto chiudiamo. Tante situazioni molto diffuse probabilmente anche peraltro, Giorgio, in questo momento, quindi lei insomma ha avuto anche la possibilità di poterla aiutare vendendo questa casa. Cosa le è successo? Ecco, mi è successo che poco tempo dopo l'Agenzia delle Entrate mi ha recapitato un F24 dicendo che io avevo frodato praticamente, adesso utilizziamo questo termine, perché secondo loro il prezzo di mercato di quell'appartamento era decisamente superiore, abbastanza superiore. E quindi insomma l'Agenzia delle Entrate dice lei sicuramente si è intascato qualche cosina in nero e non ha denunciato tutto nella transazione. E mi ha mandato un F24 da 6.000 euro. Io ho contattato il notaio che si è dato disponibile. Cioè ho contattato l'Agenzia delle Entrate, ho contattato il notaio che si è dato disponibile a certificare la cifra incassata, ho contattato l'acquirente che poi ha fatto anche altri lavori e così, che aveva la fattura di buoni fatti, la fattura dell'acquisto, perché lui l'ha acquistato per un'azienda, diciamo così, ma non è andata bene la fattura, perché la fattura è una fattura unica, voleva dettagliata nelle singole voci, quindi mi sono sentito rispondere o lei ci dà 6.000 euro o ci fa causa tramite la commissione, fa un ricorso. Certo, Giorgio, la ringrazio molto per la sua testimonianza, che naturalmente avvalora anche quello che appunto sostengono molti ascoltatori. Sì, vabbè, voi dite comportatevi in maniera trasparente, poi tanto appunto il piccoletto viene in ogni caso pescato, il grande no, e addirittura Giorgio, pur avendo la totale certezza e potendola anche dimostrare di aver fatto un'operazione totalmente corretta e trasparente, il fisco, sì, dai, ogni tanto mi viene, il fisco presume che invece questa trattativa sia stata condotta per ben altri importi, Fabrizio Vedana, e non va mica tanto bene neanche questo. Beh, questo sicuramente, diciamo, ovviamente l'avvertenza, ma che dovrebbe essere ormai conosciuta da tutti, è prestare sempre attenzione ai pagamenti in contanti. Purtroppo il fatto di avere in mano una fattura non basta per poter dimostrare di essere a posto con la nuova normativa, che fissa in 999 euro il limite di utilizzo del contante tra privati e aziende. Io mi permetterei anche di portare l'attenzione degli ascoltatori su un altro aspetto. Nell'ambito dei rapporti da comunicare all'agenzia non ci sono i conti esteri. Attenzione però a pensare che aprire il conto estero, quindi conto presso una banca possa estera, lasciarci sfuggire, sia la soluzione, perché in realtà il conto estero va comunque comunicato all'amministrazione finanziaria in un apposito quadro, che è il quadro, il famigerato quadro RW, peraltro precisiamo. RW. Nel quale quadro va indicato non solo l'esistenza del conto, ma anche il suo saldo. Quindi in realtà nell'elenco dei rapporti comunicati alla nuova anagrafe non ci sono i conti esteri, però i conti esteri vanno comunque comunicati all'interno della propria dichiarazione dei redditi nel famigerato quadro RW con indicazione del saldo se superiore a 10.000 euro. Quindi attenzione a pensare che si sfugge aprendo un conto estero. Il conto estero comunque a sua volta ha degli obblighi dichiarativi. Senta, l'acquisto e la vendita di oro invece in 30 secondi, perché poi voglio far concludere anche Nicola Forte. L'acquisto, che è una novità rispetto alla precedente anagrafe, l'acquisto e vendita, beh, evidentemente l'oro da investimento è entrato ormai nelle corde anche dell'amministrazione finanziaria. Chi sono i soggetti che devono comunicare? I soggetti che appartengono all'elenco degli operatori professionali in oro, che sono soltanto una piccola quota dei circa 30.000 compro oro. Sì, guardi, l'abbiamo fatto 400 su 28.000, abbiamo già fatto la trasmissione qualche tempo fa. Esattamente. Quindi è evidente che questo dato rischia di essere un dato molto limitato, viziato. Sarebbe stato meglio prima estendere l'elenco dei soggetti che devono alimentare l'anagrafe e poi inserire anche questa voce, altrimenti c'è il rischio che soltanto alcuni degli operatori, pochissimi, alimentino il dato anche con informazioni sull'acquisto e la vendita di oro. Allora, in realtà io devo chiudere, non ho tempo di far sentire, di sentire Nicola Forte per una conclusione. Io volevo chiedere però all'ascoltatore Giorgio, male non fare paura a non avere, Giorgio da Modena, che ci ha raccontato il suo caso poco fa, se ha tempo Giorgio ci può scrivere qualche dettaglio in più rispetto a questo caso, perché io invece adesso per non passare sempre a quella che è stata la parte del fisco, io sto dalla parte della trasparenza e della correttezza, Giorgio vorrei sapere qualcosa di più rispetto al suo caso e magari andare ad indagare proprio sulle motivazioni per cui lei è stato così subito individuato, le è stato preteso questo versamento aggiuntivo. Siccome i casi sono tanti, vorrei anche organizzarci una puntata apposita su queste situazioni per così cercare di dimostrare che stiamo parlando nell'interesse di tutti. Grazie a Fabrizio Vedana, Nicola Forte. Noi ci sentiamo stasera a Focus Economia e ritorniamo anche domani a Salvadanaio. Mercoledì del risparmio parleremo dei fondi pensione. A tutti, buona giornata.